Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, un format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Oggi torneremo presso la casa famiglia che accoglie bambini e altri animali. Parleremo di levrieri, di buona cucina, guarderemo ai fatti di attualità con il nostro sguardo animalista, antispecista e vegan e ascolteremo tanta buona musica. Bollirli vivi è socialmente accettabile, mentre conservarli sul ghiaccio no. Lo ha stabilito, a proposito degli astici, una sentenza della Corte di Cassazione che doveva esprimersi sulla multa ricevuta da un ristoratore di Campi Bisenzio in provincia di Firenze che deteneva astici vivi sul ghiaccio nel suo locale. La multa è stata confermata, ma è stato ribadito che lo stesso animale, sebbene protetto in fase di conservazione, diventa oggetto di sevizie legittime quando si tratta di venire cucinato. La sofferenza della conservazione dobbiamo evitarla perché in sostanza non se ne ricava alcun beneficio, dunque è una sofferenza superflua. Mentre il supplizio della bollitura da vivo va mantenuto in nome del beneficio che ne ha la nostra golosità. Si dice infatti che cucinare un astice bollendolo vivo mantenga la sua povera carne più morbida e gustosa. Questa sentenza ci ricorda che fino al 1996 vigeva ancora in Italia un codice penale secondo il quale i reati di violenza sessuale erano delitti contro la moralità pubblica e il buon costume che non offendevano la persona, cioè la donna, ma che ledevano una generica moralità pubblica meritevole di venire protetta e tutelata più della donna stessa, persona reputata minore e vivente gerarchicamente sottomesso alla morale familiare. Solo nel 1996 il codice penale ha cambiato questa impostazione e ha riconosciuto che lo stupro rappresenta un'offesa alla persona prima ancora che alla moralità pubblica e al buon costume. Ecco, allo stesso modo, quindi noi ci chiediamo quanto tempo dovremo ancora attendere prima che anche gli altri viventi senzienti, gli altri animali, abbiano riconosciuto il diritto alla vita e al rispetto. Thank you. continuiamo con l'attualità e andiamo a Foligno, dove un cavallo è morto durante la giostra della Quintana. Wind of Passion era questo il nome di un cavallo puro sangue ucciso sabato 17 giugno sera durante la tragica giostra della Quintana di Foligno. È morto solo successivamente Wind of Passion, ma noi scegliamo di dire che è stato ucciso perché è stato costretto a partecipare a quella competizione infernale. Ancora una volta un decadente senso dello svago, i loschi traffici degli scommettitori e il cinismo di chi lucra sulla pelle di animali resi schiavi ha dispensato la morte dove c'era la vita. Wind aveva stabilito il nuovo record della pista con un tempo pazzesco. 52 secondi e 19 centesimi, hanno scritto i giornali. Ma chiediamo noi, a chi è servito quel record? L'associazione Italian Horse Protection ha scritto un comunicato di denuncia nel quale parla di morte annunciata, ma il mondo degli sport equestri sembra sempre di più un mondo irriformabile che in una prospettiva animalista antispecista dovrebbe diventare solo un amaro ricordo. Sorte analoga a quella dei cavalli da corsa, ovvero schiantare durante le gare, tocca a un altro tipo di animale, cioè ai cani levrieri selezionati per le corse. Purtroppo queste corse sono tradizionali in vari paesi europei come la Spagna e il Regno Unito. A questi magnifici e sfortunati animali è dedicato il servizio principale di oggi, che è a cura della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, che ha intervistato per noi Stefania Traini, presidente di Pet Levrieri. Dietro al mondo della caccia e delle corse vi è veramente un sfruttamento, un maltrattamento e un vero e proprio sterminio di questi cani, perché tenete conto che sono qualcosa come 20.000 greyhound all'anno tra Irlanda e Regno Unito che vengono prima sfruttati, maltrattati e poi comunque eliminati, come 60.000 galgo all'anno nella sola Spagna che alla fine di ogni stagione venatoria vengono comunque eliminati perché non servono più sostanzialmente, diventano un costo inutile. I metodi per eliminare questi cani nella maggior parte dei casi sono cruente, quindi violente. Perché metodi violenti? Perché uno dice c'è l'eutanasia che già di per sé è comunque un'uccisione, ma perché l'eutanasia è comunque un costo. Tutti i cuccioli che hanno caratteristiche fisiche o anche caratteristiche caratteriali che fanno presumere che non diventeranno dei campioni, dei grandi cacciatori o dei grandi racer, quindi corridori, vengono soppressi. Il cane è poco competitivo, il cane che è portato più a giocare, il cane che è portato più a esplorare, a stare nel mondo tranquillamente con gli altri, è un cane che viene vissuto in realtà come non un promettente cacciatore o corridore e quindi rischia di essere soppresso. Noi abbiamo tre obiettivi fondamentali. Uno è proprio tutta l'attività di denuncia, cioè di informazione su quello che accade a questi cani. Un secondo piano è proprio quello delle adozioni e un terzo piano è quello della promozione di una cultura cinofila su questi cani, cioè di una cultura evoluta su questi cani, quali sono le loro caratteristiche, come va costruita la relazione con un cane affinché il cane possa star bene, ma anche la famiglia godersi pienamente la presenza di un cane in famiglia. Storia molto emblematica, frequente. Si chiamano Romulus e Remus, erano due greyhound, tutti e due tigrati. E per chi ha la possibilità, memorizzandosi questo nome, di andare anche sul nostro sito, invito proprio ad andarli a vedere. Sono due cani che sono stati sfruttati come racer e poi, una volta che non erano più per il loro proprietario fonte adeguata di guadagno, questo in Irlanda, sono stati portati in un pound, un equivalente di un nostro canile. E i greyhound che vengono portati al pound entro la giornata giornata vengono soppressi. Per legge un cane che viene portato in un canile in Irlanda, se nessuno lo reclama entro 5 giorni, viene soppresso. Sanno tutti che se un greyhound viene portato in un pound, nessuno lo reclamerà perché lo sta portando il proprietario stesso. E quindi vengono soppressi il giorno stesso proprio per ridurre anche i costi per il canile. Bene, questi due cani sono stati portati lì, entro 2 ore sarebbero stati soppressi, grazie lì ad una persona che lavora all'interno del canile, che aveva un contatto con uno dei rifugi con cui noi collaboriamo, ha avvisato subito il rifugio, si sono attivati immediatamente e sono corsi subito, quindi li hanno riscattati, li hanno salvati. Questi cani adesso sono in Italia ed è molto bello perché, va bene, stiamo parlando, non lo vediamo, ma c'era una foto scattata quando lei è andata a ritirarli e a salvarli, e di loro che erano dentro questa gabbia, perché ci sono delle gabbie che sono proprio chiamate un po' quelle che è il braccio della morte, cioè le gabbie destinate ai cani che verranno soppressi in quella giornata. Loro con questi musini appiccicati alla gabbia che guardano piuttosto spauriti. E poi questi due cani che, come sono stati portati il giorno stesso in rifugio, la prima cosa che hanno fatto rifugio, si sono messi a correre e a giocare come due pazzi. E sono due cani meravigliosi. Ci sono un'infinità di greyhound che invece vengono portati nel pound e entro la giornata vengono soppressi e nessuno conoscerà la loro esistenza. E questa è ordinaria amministrazione. In Irlanda, ma anche in Spagna, perché in Spagna i galgo vengono portati nelle Perreras, lì entro 14-20 giorni vengono soppressi. Per quanto l'adozione non è sicuramente la soluzione, questo è il motivo per cui noi ci impegniamo, ovviamente a livello internazionale con molte altre associazioni, per cambiare le cose, quindi per ottenere leggi che vietino tutto ciò. È altrettanto vero che l'adozione dà la possibilità di rendere ciascuno di questi cani, l'adottante stesso, un ambasciatore per questa causa. E visitando il sito internet di Pet Levrieri scoprirete che esiste un unico cinodromo per greyhound anche in Asia. Si trova a Macao, l'unica regione in Cina in cui il gioco d'azzardo è legale, ed è un luogo di orrore, di paura e di dolore. La sera il cinodromo prende vita con le sue luci al neon, ma di giorno i greyhound languono in box poco più grandi di celle. Esiste però una petizione internazionale per chiedere al governo di Macao che i greyhound del Canidrom siano consegnati all'associazione Anima Macao e al suo presidente, che si chiama Albano Martins, leader della campagna mondiale Close the Canidrom, chiudiamo il Canidrom, cioè il cinodromo di Macao. Troverete il link della petizione nel nostro blog restiamoanimali.it e sulla nostra pagina Facebook, così potrete firmarla, se siete d'accordo naturalmente. arrivato il primo sì in commissione al Senato per l'eliminazione dell'uso di animali nei circhi. Decade quindi, per fortuna, l'emendamento dei senatori Ranucci e Fasiolo del PD che volevano sostituire il termine graduale eliminazione con quello graduale diminuzione, depotenziando fortemente quindi il testo. Ma questa è solo la prima vittoria delle quattro necessarie per l'eliminazione dell'uso degli animali nei circhi, così come hanno già fatto altri 50 paesi nel mondo. Siamo molto soddisfatti per l'esito di questo primo round, dichiara la LAV. Terremo alta la guardia affinché il voto nell'Aula, previsto per fine mese, confermi quanto chiede la stragrande maggioranza degli italiani: l'effettiva tutela degli animali e il rilancio dello spettacolo circense umano. È incredibile come sia ancora irta di difficoltà la strada per affermare un principio di giustizia così banale. Uscire dal Medioevo, evidentemente, sembra ovvio, ma non lo è. Concentrarci su esperienze positive come quelle della casa famiglia interspecista Io sono mio, della quale abbiamo già parlato la settimana scorsa, e poiché in un solo servizio non siamo riusciti a incontrare e conoscere tutti i loro animali, oggi vi proponiamo un sequel. Avevamo un sacco di galline, però la volpe ha fatto spesa, 25 galline ha fatto spesa. No, non c'era ricovero per le galline. Sì, lì dentro, ma una delle bambine se n'è dimenticata per l'appunto quella notte. Quindi quando le galline sono state fatte fuori dalla volpe, che cosa è successo? Ci ha messo in punizione per farci capire che la responsabilità per gli animali è importante e anche loro hanno comunque una persona, la loro personalità e anche un carattere che emerge. Quindi ci ha voluto far capire questo, perché anche ci si sente in colpa noi mi sono sentita in colpa, poverine. Dopo siete stati più attenti? Sì. E in che cosa è consistita la punizione? Senza televisione o senza cellulare, per una settimana. Come avete fatto a resistere? È stata dura? Sì, è un po' sì. Però fortunatamente mi piace tipo anche a me leggere, ascoltare la musica, quindi ho fatto altro. Gli asini sono due, Romeo che è il babbo e la Sally che è la figliola. Pioggia e Vasco, che sono mamma e figlio, sono pony. Poi abbiamo Ruzzolino, che è un altro pony piccolino. Poi abbiamo la mamma, che avevano detto che era sterile, che poi dopo 6 anni ci ha fatto la sorpresa una mattina, non sapevamo nemmeno che fosse in attesa, e ha scaricato, come si suol dire, la creaturina, che invece è Romina, figlia di lei e di Vito, che è un altro cavallino. E loro sono mini pony, però sono quelli proprio piccolini piccolini. Ma è facile con questo Romeo. L'ha visto me. Empatizzare. L'unica cosa è che Romeo, l'asino, siccome è giocherellone, c'è un'alpa che invece è vecchio e si alza poco ormai, gli va a fare dispetti. Quel disgraziato di Vasco, a 3 anni, ancora ciuccia dalla sua mamma. Ah sì? Sì. A 3 anni? Sì. Cioè, la cosa bella degli animali che convivono tutti insieme è proprio questo, il riuscire a interagire fra di sé. Ma non solo. Quando noi prendiamo un animale nuovo, per una settimana lo mettiamo da solo in un ambiente, ma portiamo tutti gli altri a farglielo vedere. Perché tu vedessi come si agitano. Quando arriva qualcuno di nuovo, tutti convogliano da lui. Immagino. Perché è la novità. Lo devono conoscere. Lo devono conoscere. Come si fa in casa quando arriva un ospite. Sì. O un bambino nuovo, un bambino no? Nuovo il nostro per caso. Voi. Sì. My soul is free. torero spagnolo è morto durante una corrida. È successo a Der-sur-l'Adour, nel sud-ovest della Francia, nella regione dell'Aquitania, non lontano dai Paesi Baschi. L'uomo, Ivan Fandigno, aveva 36 anni. È stata letale per lui una cornata che gli ha trapassato il polmone destro. Il torero di Bilbao sarebbe inciampato e una volta a terra è stato infilzato alla schiena. Il soccorso è stato immediato, ma non c'è stato nulla da fare. L'ultimo torero morto durante una corrida era stato un anno fa Victor Barrio, di 29 anni, infilzato anche lui da un toro nella piazza di Teruel. Le regole del gioco, comunque vada per il torero, non prevedono che il toro esca vivo dall'arena. E così è stato anche per questo toro, che invece di venire ucciso inerme, ha combattuto per la sua vita. Pa' cobrarme las heridas, malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres, malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día gris, cuando tú estás... Dalle corride della Francia passiamo invece al braccio della morte di un mattatoio francese che per un giorno è stato invaso da decine di attivisti dell'associazione 269 Life. È accaduto all'alba del 15 giugno scorso a Cuisot, nel mattatoio della società Bigard, uno dei principali in Francia, che vanta l'orrendo standard di 1000 animali uccisi ogni giorno. Gli attivisti si sono interposti tra i coltelli e le vittime predestinate cercando di resistere più a lungo possibile, inermi e disarmati, e sono stati portati via con la forza dalla polizia francese. Alla loro strategia di disobbedienza civile e azione diretta non violenta è stato dedicato un articolo su Le Monde, nel quale l'associazione dichiara: «Noi non vogliamo stare solo nelle strade, vogliamo stare proprio dove il massacro degli animali accade, con la disobbedienza civile». L'associazione conduce azioni dirette ispirate a svariati teorici della disobbedienza come Henri David Thoreau, Hannah Arendt, Howard Zinn, Saul Alinsky, eccetera, e rifiuta ogni compromesso con l'industria della morte, contrariamente a tante altre associazioni animaliste. I due leader dell'associazione 269 Life sono stati convocati nella gendarmeria locale in seguito alla denuncia presentata dalla società Bigard, rischiano fino a 5 anni di carcere e 75.000 euro di multa, ne sono ovviamente consapevoli. L'associazione 269 Life chiede che venga riconosciuto giuridicamente il carattere politico dei gesti di disobbedienza civile, oggi considerati semplici reati apolitici. Il loro motto è: siamo resistenti, non delinquenti. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Punto primo, poco tempo per cucinare. Punto secondo, fa caldo ed è tassativamente proibito accendere il forno o più di un fornello. Punto terzo, in casa c'è poco o nulla. Ci arrendiamo? C'è mais. Ecco la super veloce ricetta della pizza in padella. Gli ingredienti per una persona, questa volta, perché con queste premesse è già tanto se cucinato per uno, sono 2 cucchiai di farina, un cucchiaio di farina di grano saraceno, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, un pomodoro maturo, mezzo spicchio di aglio tritato, qualche cappero, qualche oliva denocciolata, origano e basilico. Lavate e affettate il pomodoro e conditelo con l'origano, il sale e l'aglio tritato. A parte mescolate le due farine e diluitele con acqua fino ad ottenere una pastella liscia e cremosa, non troppo liquida. Aggiungete un cucchiaio di olio, del sale e infine il bicarbonato e l'aceto di mele. Mescolate un'ultima volta e versate metà impasto in una padella antiaderente spennellata di olio. Fate cuocere un paio di minuti. Quindi sistemate al centro il pomodoro condito, qualche cappero e oliva e coprite con l'altra pastella. Coprite il tutto col coperchio e finite di cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti per lato. Servite con una bella foglia di basilico fresco e un giro di olio a crudo. E siamo in chiusura, ricordiamo i nomi degli ospiti e di chi ha realizzato questa trasmissione, sono Roberta Marino, Stefania Traini, Silvia Permoli, Gerardo Simonetta, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti e la conduttrice solitaria Camilla Lattanzi. L'appuntamento per la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.